Sì, la mostra è stata organizzata a partire dal fondo che è conservato qui dai Fratelli Arcangeli, quindi di Nino, Gaetano, Francesco e Bianca, che è stata donata all'inizio degli anni 2000 qui alla Biblioteca dell'Archeginnasio. E quindi sia io che Bazzocchi abbiamo studiato questo fondo, abbiamo ricavato alcuni fili conduttori. In particolare ci interessava far vedere qual era l'idea di storia dell'arte che aveva Arcangeli, a partire da questo concetto che è quello di tramando, cioè l'idea che ci siano dei fili rossi nella storia dell'arte che non si interrompono e poi rinascono, ma che continuano tra una corrente artistica e l'altra, anche magari minoritari, ma che poi dopo riemergono. E quindi in questo modo lui ha potuto mettere in correlazione, ad esempio, gli artisti romantici inglesi dell'Ottocento con l'arte informale degli anni 50 italiana, no? Passando attraverso gli impressionisti e tutto quello che c'è in mezzo, perché ha visto un particolare modo di guardare la natura che era comune a queste correnti artistiche. Noi abbiamo provato a farlo nelle bacheche, nel senso far vedere che gli argomenti affrontati nel suo percorso di storico dell'arte da parte di Arcangeli, gli argomenti che ha trattato appunto avevano questa qualità qui, cioè un modo di guardare la natura diverso, una natura ed espressione, un modo dell'uomo di rapportarsi con la natura che è diverso da quello razionalista e da quello anche illuminista, insomma, e che c'è sempre qualche elemento appunto difficile da comprendere, no? Che resta lì, che ci portiamo dentro, e quindi questo lo possiamo ritrovare tanto negli impressionisti, appunto c'è una bacheca sugli impressionisti, lo possiamo trovare negli informali, l'ho detto, ma lo possiamo trovare già in Villigelmo per lui, che comunque è del 1100, e lo possiamo trovare in Morandi, ovviamente, anche nella natura morta di Morandi, nei paesaggi di Morandi, eccetera. Quindi questa è stata un po' la chiave di lettura della nostra interpretazione, a cui si aggiunge la grande attenzione per la letteratura da parte di Arcangeli, cioè l'idea che dentro la letteratura può trovare delle categorie critiche da utilizzare anche per interpretare le arti visive, quindi la pittura in particolare, la scultura, eccetera. Ora, Arcangeli è stato anche direttore della Galleria d'Arte Moderna a Bologna, e come il suo ruolo di direttore, il suo approccio alla critica ha in qualche modo avuto influenza sulle opere che sono state presentate, sulla cura della galleria? Allora sì, Arcangeli ha avuto un ruolo fondamentale a Bologna, ha creato proprio una sorta di antiscuola di critici e storici dell'arte che hanno seguito questo suo modo di intendere l'arte, quindi molti suoi allievi poi adesso hanno avuto ruoli importanti, sono diventati degli autorevoli critici d'arte, e lui durante quella conduzione soprattutto si è dedicato a una cosa, però a fare delle mostre appunto che spiazzassero un po' il pubblico, e ad esempio come natura ed espressione, no? Per mettere insieme da Villigelmo a Morandi, passando appunto dai Carracci, da Bastianino, da Spertini, quindi anche autori meno noti, per arrivare a Morandi. E poi ovviamente le acquisizioni di Morandi, lui teneva molto alle acquisizioni di Morandi, infatti la Galleria d'Arte Moderna di Bologna, che adesso si chiama Prima Gamma, adesso Mambo, ha una grande collezione di Morandi, proprio perché Arcangeli si è impegnato proprio per questo, per far avere una sede, insomma, alle opere di Morandi tutte insieme qui a Bologna, perché Morandi è legatissimo ovviamente a Bologna e anche Arcangeli, insomma, perché come molti degli appassionati, degli esperti e degli amici di Morandi stavano con lui a fare queste passeggiate lungo la città, e quindi poi da lì apprendevano anche il suo modo di guardare il mondo, che poi diventa anche l'influenza in qualche modo. Quindi lui ha avuto un ruolo istituzionale importante, Arcangeli, sia dal punto di vista pedagogico, formativo, di una classe di critici d'arte importanti, ma anche delle istituzioni della città, con mostre che effettivamente sarebbero difficili quasi replicare oggi, perché spiazzanti. Quindi è da questo che il titolo è proprio Le province dell'arte, quindi Arcangeli decide di concentrarsi anche su, oltre naturalmente ai grandi nomi, anche su figure che magari all'epoca non erano particolarmente conosciute, quindi potevano spiazzare, come ha detto lei, e che però magari guardate nel contesto della sua critica potevano dirci qualcosa di più invece su altri nomi più importanti. Sì, perché come dicevo prima, alcune volte i cosiddetti minori portano avanti dei fili conduttori che magari nei secoli si perdono un po' e poi riemergono più avanti. Quindi, ad esempio, questo rapporto con la natura molto diretto, no? Anche da cultura contadina, no? con il paesaggio, con il bestiame, eccetera, magari resta in qualche pittore minore dell'Ottocento, Emiliano Romagnolo, però poi dopo riemerge in pittori successivi che hanno una forte intensità, no? Ad esempio. E così possiamo mettere in relazione magari appunto pittori minori dell'Ottocento bolognese con Van Gogh, perché effettivamente il rapporto, i soggetti sono gli stessi, poi con tecniche diverse evidentemente, oppure possiamo vedere come, non so, in qualche quadro di Turner, dove l'occhio inizia a perdersi dentro quelle nebbie della Londra dell'Ottocento, in realtà si possa riscoprire anche nell'arte informale di secondo Novecento, dove l'occhio non sa esattamente che forme sta vedendo, proprio perché l'artista non ha voluto dare già un'interpretazione di quelle forme della natura. E questo si trova anche in letteratura, no? Quindi trova ad esempio in Pascoli, che non sembra ovviamente così informale, non lo è, però un rapporto con la natura molto più intimo, molto più privato, molto meno contaminato magari dal progresso, dove magari si può trovare quel barlume anche di rinascita del rapporto con la natura, di cui l'uomo ha sempre costantemente bisogno. Però poi si passa anche a un Montale, che effettivamente è un autore noto, però messo in relazione ovviamente con Morandi, quindi per far vedere come effettivamente questa correlazione tra la condizione di certi oggetti e la condizione umana effettivamente dà una non è solamente un'attestazione della difficoltà e della crisi dell'uomo, ma anche una possibilità, no, di un nuovo rapporto con le cose.